335. Sampa burrata. La trippa, per analogia di cucinature ed aspetto, richiama alla memoria la sampa burrata, che è un piatto di carattere e di fisionomia del tutto fiorentina, che va lodato perché è nutriente di natura gentile. Usandosi in Firenze di macellare bestie bovine giovani, se n'è tirato partito per far servire come alimento quello che in altri paesi si lascia unito alla pelle per farne cuoio. Intendo dire delle zampe che dal ginocchio in giù vengono rase dal pelo e così belle e bianche son vendute a pezzi o d'intere. Prendasi dunque un buon pezzo di questa zampa e si lessi, poi si disossi, si tagli a pezzetti e si metta al fuoco con burro, sale e pepe, un po' di sugo di carne parmigiano quando si leva. Mancando il sugo di carne, può supplire discretamente il sugo o la conserva di pomodoro. Di questo piatto prese una solenne indigestione una signora attempata che era in casa mia, forse perché ne mangiò troppa e la molta cottura che richiede non la rese abbastanza morbida.